Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante e il traghettatore, bentrovati. Partiamo subito con una notizia che, come dire, dà il senso stesso di Ferribot e dell'impegno delle aziende nella responsabilità sociale. C'è una ricerca che è stato fatto, rapporto sull'impegno sociale delle aziende in Italia realizzato da SVG per l'Osservatorio Socialis di RP Comunicazione, è stato presentato all'Università Pestaniere di Perugia e ci dà questa bella visione. Il 73% delle aziende del centro e il 75% di quelle del sud e delle isole in un anno ha investito in iniziative a sostegno della cultura, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, della solidarietà e del personale interno. C'è un, come dire, impegno crescente che certamente non può che farci piacere. E a proposito di responsabilità sociale, vi diamo una cifra: più di 11 milioni di ore di servizio e oltre 170.000 partecipanti all'iniziativa di volontariato che di IBM. Ne parliamo con Angelo Failla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, in effetti ricordavi bene, sono ormai moltissime le ore di volontariato che i dipendenti IBM in tutti i paesi del mondo dove la nostra azienda è presente sono state donate, per così dire, in attività sociali a favore delle comunità. Questo che è un progetto che ormai IBM sviluppa da più di 10 anni, avrà un momento di particolare significato, secondo me, proprio la settimana prossima. Il 15 di giugno, infatti, è l'ultimo giorno del primo secolo di vita della IBM. IBM festeggia quest'anno appunto questo importantissimo traguardo, non sono molte le imprese che possono vantarlo, ancora di meno se si pensa alle imprese nel mondo dell'information technology che comunque hanno una posizione di leadership. Cosa faremo in quel giorno? Lo faremo in Italia ma anche in tutti gli altri paesi, come dicevo prima. Ci dedicheremo con particolare impegno ad attività di volontariato. Questo naturalmente non vuol dire che le persone non andranno a lavorare in azienda, visto che il volontariato, se appunto la cosa deve essere fatta in modo come ovvio volontario, riguarda la sfera individuale e personale appunto dei dipendenti IBM, però ecco, il 15 di giugno vi sarà un picco di attività in quest'area che, giusto per fare qualche esempio, riguardano il mondo delle scuole. Sappiamo che in questo periodo le scuole sono chiuse, vi sono però le scuole dell'infanzia ancora aperte e in quest'area molti nostri colleghi svilupperanno iniziative volte a facilitare anche in questa fascia d'età una maggiore comprensione, ad esempio, dei temi legati alla sostenibilità ambientale. Un altro esempio di impegno ha a che fare con quello che altri nostri colleghi fanno in ospedali dove ci sono bambini lungodegenti, utilizzando tecniche avanzatissime di didattica assistita da robottini in modo da aiutare questi bambini in un periodo particolarmente difficile della loro vita. Altre iniziative svilupperemo in altre città in collaborazione con istituzioni locali che si occupano di cultura o di impegno sociale in generale. In Italia la community dei dipendenti IBM che si occupa di volontariato ormai raggruppa più di 2.000 persone e sono centinaia le iniziative che dall'inizio dell'anno sono state sviluppate e noi speriamo e ci contiamo che entro la fine di quest'anno ogni dipendente IBM dedichi almeno 8 ore di volontariato in attività appunto al servizio della comunità. Grazie, appuntamento quindi a giovedì 15 per il Day of Service, grazie ad Angelo Failla. A proposito, restiamo sempre nel campo del no profit, ovviamente vi parliamo di Plain Inc., scritto plaininc.it, è un'associazione fondata da Selene Biffi che produce fumetti educativi per bambini e fin qui potrebbe non esserci niente di singolare, non sono singolari neanche i temi, se volete i soliti, salute, sicurezza alimentare, mitigazione dei disastri. Quello che c'è di originale è che questi fumetti vengono poi prodotti nei paesi in cui opera l'associazione, soprattutto in Afghanistan e in India. È un'altra particolarità ancora più forte e che i disegnatori sono i soci sostenitori. Infatti attraverso questo sito, versando una cifra che va da 5 a 50 euro a discrezione di chi lo fa, di chi si iscrive, si può collaborare come autori, come illustratori, come supporter. Questo è una nuova tecnica, si chiama crowdsourcing, e ogni socio può diventare protagonista dell'attività anche direttamente online. È tutto per la puntata di Ferribot di oggi. Vi ricordo ferribot@radio24.it per segnalare le vostre iniziative. E un grazie a Luca Rinaldi in redazione e alla regia di Filippo Aureggi.